Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa. Il martedì alle ore 14. Trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Da Letterature Festival 2025, Paolo Nori con Caracalla. Me l'han chiesto, io gli ho detto di sì, lo devo fare, ho fatto male. Mi ha detto che è un posto anche bello, adesso non so bene dove, Caracalla, in quei posti lì, Caracalla. Non era Caracalla, ma un posto del genere lì di Roma, tipo Caracalla, ma non Caracalla. Che a Roma hanno un sacco di posti, cioè dappertutto hanno dei posti, a Roma anche loro ne hanno tanti, e anche con dei nomi strani come Caracalla, che Caracalla, pensarci, è un nome, Caracalla. Come ti chiami te? Caracalla. Ah, ma dai. Comunque non era Caracalla, era un altro posto, le letterature, lì un posto bellissimo, mi hanno detto, forse il Flaminio. Anche Flaminio, pensarci, è un nome. Meno bello, mi sembra, di Caracalla. Come ti chiami te? Flaminio. Ah. Comunque hai capito, uno di quei posti lì con dei parchi romani, con le piante romane che sono lì a Roma, insomma, mi hanno invitato a luglio a parlare di ritorno. Che io, il ritorno, cosa vuoi che sappia io del ritorno? Cioè a me mi viene in mente quella cosa, come si chiama, Pavese, Cesare, non Caracalla e neanche Flaminio, Cesare Pavese, quella cosa che dice, la so anche a memoria, paese ci vuole, non fosse che per il gusto di andarsene via. Un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra, c'è qualcosa di tuo, che anche quando non ci sei resta ad aspettarti. Scriveva bene Pavese, secondo me. Ma al di là del fatto se scriveva bene o no, che scriveva bene, secondo me, era potente, secondo me, io mi ricorderò sempre l'effetto che mi ha fatto l'inizio di lavorare stanca, quando l'ho letto la prima volta. Stupefatto del mondo mi giunse un'età che tiravo dei pugni nell'aria e piangevo da solo. Avevo 13 anni e ero io, quello lì, che tirava dei pugni nell'aria e piangeva da solo. Era quella l'età. 13 anni, poi 14, 15, 16, 17, fino a 24, dei pugni nell'aria e piangevo da solo. Era potente Pavese, durava degli anni Pavese, dei decenni, ma al di là di quello, che forse c'entra mica tanto, quella cosa del paese che ci vuole c'entra, secondo me, col ritorno. Poi mi piace il fatto che Pavese ha scritto questa cosa qui che comincia con un paese. Pavese, paese, che non sarà Caracalla, ma insomma, le langhe. Le langhe devono essere belle. Sono stato, ma non mi ricordo, però mi ricordo che mi hanno detto che sono molto belle. Adesso ci guardo quando ci torno, perché secondo me ci torno se mi invitano. Da solo faccio fatica, no? Perché io, cosa vuoi, ormai ultimamente vado solo dove mi invitano e, te non ci crederai, mi invitano, davvero. Mi invitano dappertutto, sono stato anche in Colombia, a Bogotà. Si mangia bene a Bogotà. C'è una zuppa di cipolle e di patate con riso, mi è piaciuta da Sgarbati. Bogotà invece mica tanto. Dove dormivo io, quartiere ricco, c'erano le guardie armate in tutti i condomini. Sono mica tanto biondi a Bogotà. E non mi piace. Stanno dicendo? Ah sì, che io mai e poi mai mi aspettavo un invito da Bogotà, invece mi hanno invitato, e non solo loro, anche nelle Langhe, tanti anni fa. Perché questa storia che mi invitano va avanti da degli anni, non fanno altro che invitarmi, anche a Caracalla, che io, mi veniva da dirgli, cosa mi invitate a fare? Non sono mica uno da invitare. Poi a parlare di ritorno, che io ritorno, Caracalla non sono mai stato, cosa vuoi che torni? Ma loro non hanno sentito ragione. No, no, lei non siamo sicuri che sa un sacco di cose sul ritorno, io lì cosa vuoi? Siete sicuri? Gli ho detto va bene. E adesso hai capito? Bisogna che la scrivo quella cosa lì sul ritorno, 8000 caratteri. Mica una frasetta, una pagina. No, no, 8000 caratteri. Dopo di bello, c'è che loro prendono tutto, non è mica tanto per il sottile. Te comincio a dire Caracalla, Caracalla, e nota che Caracalla non c'entra un cazzo. E loro lo prendono, va bene, bravo, complimenti forse. Mi immagino io, adesso vediamo. Che magari poi alla fine loro dicono, no, guardi, Caracalla è meglio di no, parli di Flaminio magari. O delle langhe, vedremo. Perché, no, io Caracalla, Flaminio, le langhe, io forse, cosa dici? Io parlerei magari di quel che conosco, l'Emilia, Parma, Bologna, cosa dici? Che ho dei dubbi perché di queste robe qua io non faccio altro che parlarne e io ho l'impressione che lì, Caracalla, sai quelle cose lì un po' romane, ma belle, no? Cioè, non così basta che sia come da noi in Emilia. Io ho l'impressione che lì, non lo so. Perché se no, non so, adesso sembra una combinazione. Io 2 settimane fa, sembra fatto apposta, ma non è mica vero, cioè io sono tornato a abitare con la mamma di mia figlia che erano 20 anni, che non abitavamo più insieme. Poi, a parte questa cosa fuori dall'ordinario, anche ritorni ordinari, adesso sembra fatto apposta, non è fatto apposta. A me mi piace da sgarbati tornare a casa. Sai quando, non so, sei a Bogotà, monti sull'aereo e ti dici, stasera dormo a casa. Che i primi anni che abitavamo insieme con Francesca, mamma di mia figlia si chiama Francesca, anche se io quando scrivo di lei la chiamo Togliatti, che lei ha studiato storia dell'Unione Sovietica e è convinta di essere il migliore. Io da quando ho cominciato a pubblicare nel 99, io mediamente faccio un centinaio di interventi pubblici l'anno, 100 volte l'anno, 2 volte a settimana, che sono in giro da qualche parte a leggere o a recitare o a insegnare, e tutte le volte alla fine torno a casa, mi piace così tanto, e i primi 5 anni... dalla fine del 99 all'inizio del 2005, abitavo con Francesca e lei mi apriva la porta e guardava in giù da sopra le scale e la prima cosa che mi diceva quando mi vedeva era come sei bello. Che io pensavo, ma cosa dici? Dopo quando ci siamo separati, siamo stati separati 9 anni, non mi parlava neanche più altro che come sei bello. Lì, quegli anni lì non è stato bello tra noi, ma sai cosa c'era? Mia figlia, che io il primo anno di separazione ero tornato a stare a Parma e venivo a Bologna 3 volte a settimana per vedere mia figlia che andava all'asilo, aveva 2 anni, e tutte le volte che andavo a prendere l'asilo era così contenta di vedermi che per me era incomprensibile, era incredibile che ci fosse al mondo una persona contenta di vedermi così. Che poi, a proposito di ritorni, io, sono delle cose che mi viene da ripeterle sempre, in tutte le cose che scrivo, che anche questo in un certo senso è un ritorno, no? Ripetere, ritornare. No, eh? Si arrabbiano quelli lì a Caracalla se dico una cosa che la dico sempre. No, che io ho l'impressione, sai cosa? Che siano sempre nuove certe cose, come certi ritorni del resto. Come quel ritorno lì che io, quando ci siamo separati con Francesca, avevo 42 anni, per un anno sono tornato a abitare a Parma e ho ritrovato una luce per le strade di Parma. Sono dei momenti che ti sembra di nuotare nella luce. Che poi la luce che quando ero un bambino, che erano 2 del pomeriggio, che uscivo dal portone, dall'androne buio del condominio dove abitavamo, in via Cenni 20, aprivo il portone e entravo nella luce, che era tempo, per 2 del pomeriggio fino a sera, e spazio. Da via Montebello in qua, tutto il quartiere, è lì, tutti i giorni, in via Cenni 20, a Parma. La promessa era così grande che mi viene da piangere a pensarci. Che lì dopo una volta mi ha telefonato un mio amico romagnolo che è uno scenografo e mi ha detto che a Roma, Caracalla lì, aveva incontrato una scrittrice che gli aveva detto che non si spiegava come mai io non scrivessi in italiano. Che era una cosa che io, quando me l'aveva detta con il mio amico lì, gli avevo detto «dille che ci scriva lei in italiano». Che era come darle ragione che io non scrivo in italiano. Invece io, secondo me, scrivevo in italiano. Solo che era un italiano particolare che io non so. Ci sono delle parole come felicità, o il verbo amare, che io non le uso mai quando scrivo. E mi è venuto a chiedermi come mai non le uso. E mi è venuto a rispondermi che dipende dal fatto che erano parole che in dialetto parmigiano non esistono. Che in parmigiano non c'è una parola per dire felicità. Non si dice in parmigiano sono stato felice, si dice son ste be, sono stato bene. Così come non si dice in dialetto parmigiano ti amo, si dice a tvoi be. E amor, in dialetto parmigiano, non significa amore, significa io muoio. E io a pensarci la mia lingua, il pozzo delle mie emozioni, io l'ho scavato a Parma. E quando devo lavorare con loro, con le mie emozioni, devo usare le parole che ho sepolto a Parma. Devo tornare a Parma e buttare giù il secchio in quel pozzo lì che ho scavato a Parma, non posso fare altrimenti. Che Parma, a proposito di ritorni, è il posto che io non posso fare a meno di Parma. Che adesso Caracalla sarà bello, non discuto, ma Parma è un lavoro altro che Bogotà. Io a Parma, a proposito di ritorni, io ritorno a casa più stupefacente della mia vita, è stato a Parma. A tornare da teatro 20 anni fa, ero andato al Teatro 2 su Lungo Parma a vedere un Riccardo III, la compagnia del Collettivo, che io non l'avevo mai visto. C'era Gigi Dall'Aglio, Roberto Abbati e c'era sto cavallo enorme in scena. È stato uno spettacolo incredibile. Me ne sono accorto quando sono uscito che la strada che ho fatto a tornare a casa era la strada che facevo a tornare da scuola quando andavo all'Istituto Tecnico Macedonio Melloni di Parma, di là dal ponte. L'ho fatta migliaia di volte, quella strada lì. E quella sera, dopo Riccardo III, era nuova. Era come se la compagnia del Collettivo con loro Riccardo III mi avessero montato degli occhi nuovi. Il mestiere che facciamo noi è quello. E se uno ci pensa, gli occhi nuovi è impossibile. E io, tutte le volte che comincio a scrivere qualcosa, che so che l'obiettivo è quello lì, montare alla gente gli occhi nuovi, io mi dico non ce la farò mai, non ce la farò mai, non ce la farò mai, non ce la farò mai. Magari gli racconterei questo. Cosa dici? Da Letterature Festival 2025, Paolo Nori con Caracalla. Sempre dal Letterature Festival 2025, Ilya Leonard Pfeiffer con Ritorno in Grecia. Anche se sono senz'altro sensibile al rallentamento di tutte le cose che la Grecia induce, alla sensazione di spensieratezza che si distende nel tempo fuso e diluito, fino alle isole che sfumano lievemente d'azzurro all'orizzonte, e alla tentazione di concludere sulla base della presenza tangibile di una storia millenaria che tutto ciò che ci sarebbe da fare sia in realtà già stato fatto da tempo, non è in primo luogo per questa inattività che si impone con una forza di persuasione travolgente che mi sono innamorato di quel paese. E seppure trovo senza dubbio benefico abbandonarmi alla constatazione che lì non devo fare alcuno sforzo per lasciare che il sole tramonti e che il giorno si consegni a una sera in cui non ci si aspetta più nulla di esso, questa calma pacata non costituisce la ragione principale per cui sono tornato ogni volta in Grecia. Quando da studente di lettere classiche partivo ogni estate per l'Ellade, già all'aeroporto internazionale Eleftherios Venizelos di Atene cominciavo a rimuovere mentalmente tutta l'architettura e tutti gli oggetti costruiti o realizzati dopo il V secolo avanti Cristo. Su un taxi inesistente percorrevo arterie stradali che rifiutavo di riconoscere, diretto verso l'Atene di Pericle, dove mi orientavo meglio che che nella città dormitorio dei Paesi Bassi in cui sono nato. Quando poi viaggiavo attraverso il Peloponneso, la Beozia, la Locride, la Tessaglia e verso le isole, sull'autobus o sul traghetto, ero l'unico che si rendeva conto dei confini che separavano i territori delle fiere e indipendenti città-stato che stavamo attraversando e delle alleanze precarie che mettevamo a rischio con il nostro incauto viaggio. Sussurravo i nomi antichi. Quando sotto mio ombrellone in una spiaggia affollata guardavo il mare, immaginavo una flotta di triremi che si avvicinava. Quando mi trovavo nella valle sacra di Olimpia o presso l'oracolo di Delfi o sull'isola sacra di Delo, mi bastava ricostruire mentalmente le rovine e vestire tutti i turisti nella mia immaginazione di chittoni e trasformarli in pellegrini per sentirmi tornato a casa, nell'habitat della mia anima. E tuttavia, nemmeno allora, le antiche pietre, che pure erano lo scopo dei miei viaggi, costituivano il cuore della mia fede nella Grecia. La vera causa della mia fascinazione per l'Ellade mi si rivelò pienamente sabato 6 maggio 2023. Era il primo dei 5 giorni che avrei trascorso ad Atene in preparazione all'uscita del mio romanzo storico sull'Alcibiade. Il giorno successivo, un gruppo selezionato di giornalisti olandesi e belgi si sarebbe unito a me per una serie di interviste e una visita guidata ai luoghi storici che hanno un ruolo nel mio libro. Quel sabato visitai quegli stessi luoghi insieme alla fotografa olandese Keke Keukelaar, con l'obiettivo di fornire alle rispettive redazioni dei ritratti lusinghieri di me stesso con colonne autentiche, storicamente corrette sullo sfondo. Sul finire del pomeriggio scattammo delle foto nell'Agora. È uno di quei luoghi che, come pochi altri, garantisce la cosiddetta sensazione storica, quella che ti coglie all'improvviso e che ti dà l'impressione di poter toccare la storia con mano. L'Agora di Atene è un luogo che Alcibiade ha certamente frequentato spesso. Potremmo quasi metterci a cercare, per modo di dire, le impronte dei suoi sandali. Dopo la sessione fotografica, prima di proseguire verso la Penice per l'ultimo appuntamento della giornata, ci sedemmo all'aperto per bere qualcosa in uno dei tanti locali turistici sulla Odos Adrianu. Mentre stavamo lì a riposarci, lasciando vagare lo sguardo sull'Agora e sull'Acropoli che si ergeva alla sua spalle, pensai, come si è quasi obbligati a pensare, a quanto fosse straordinario che tutto ciò che vedevo esistesse ancora. Ma allo stesso tempo cominciava a farsi strada in me l'inevitabile conclusione che tutto ciò che avevo davanti agli occhi era fondamentalmente un ammasso di macerie. Mi chiesi che cosa avrebbe pensato Alcibiade se in quel momento fosse stato lui e non Cheche seduto di fronte a me e si fosse trovato davanti a quello stesso panorama. Ero certo che sarebbe scoppiato in lacrime. Il cuore della sua potente città natale era stato schiacciato dal tempo. Misere rovine raccontavano più la distruzione totale che la passata grandezza. Il suo mondo esiste ormai solo in una forma che sottolinea con forza il fatto che non esiste più. E fu allora che mi resi conto di ciò che in fondo avevo sempre saputo. Il mondo antico che amo così profondamente, nel quale mi sento a casa e che ogni volta vado cercando nei miei viaggi in Grecia, è un mondo di parole. L'agorà che visito quando visito l'agorà è quella di Tucidide e di Platone, ai piedi dell'Areopago di Eschilo e della maestosa Acropoli che tutti hanno descritto. A differenza della città antica, le parole che la evocano non sono andate in frantumi né si sono rovinate. Molti scritti sono andati perduti, è vero, ma ciò che è giunto fino a noi parla ancora con le voci di allora, forte e chiaro. Questa è la vera sensazione storica. Sapere che, se ti sei concesso il privilegio di imparare a leggere quei testi nella loro lingua originale, entri in contatto diretto, senza filtri né mediazioni, con i pensieri di qualcuno che è vissuto 2500 anni fa. La Grecia è una terra da cui affiorano storie. E questo è il motivo per cui lì mi sento a casa. Quelle storie danno senso alla banale realtà di un paese che deve il terzo del proprio prodotto nazionale lordo al turismo. Il vuoto pigro si riempie di miti e di storia, come un pallone da spiaggia che si riempie di fiato per diventare davvero un pallone da spiaggia. Persino una banale località balneare in Grecia può portare un nome antico che evoca i canti degli eroi. Ricordo che una volta, mentre percorrevo la E75 da Salonicoi ad Atene, vidi a un certo punto l'uscita per Tebe. Non avevo intenzione di andarci, avevo altri programmi e sapevo che la Tebe di oggi è una città moderna, poco idilliaca, fatta di cemento assolato e asfalto rovente. Ma fu sufficiente vedere quel cartello con il nome sacro della Tebe dalle sette porte perché nella mia mente esplodesse un fuoco d'artificio di storie. Di Cadmo che seminò i denti del drago, del suo matrimonio con Armonia alla presenza di tutti gli dèi, della maledizione della collana di lei, della figlia di Cadmo Semele che divenne madre di Dioniso, di suo nipote Penteo fatto a pezzi dalle Baccanti, di Edipo, che uccise suo padre, risolse l'enigma della Sfinge e sposò sua madre. Dei figli di Edipo che si uccisero a vicenda sul campo di battaglia, della loro sorella Antigone, murata viva per aver dato sepoltura anche al fratello traditore della città, e della nascita di Eracle, che nella culla strangolò i serpenti di Era. Questa Tebe era la città del poeta Pindaro e del condottiero Epaminonda, comandante del battaglione sacro, l'invincibile corpo d'élite composto da 150 coppie di amanti omosessuali. Era la nemica ereditaria di Atene, la città che si schierò con i persiani durante l'invasione di Serse e che fu infine distrutta da Alessandro Magno. Tutto questo, tutto insieme, era il significato del cartello all'uscita 31 della E75 davanti al quale sfrecciai in una manciata di secondi. Ma per questo sento già qualcuno obiettare, non c'era bisogno di andare in Grecia. Se davvero mi interessano solo le storie, potrei restarmene altrettanto bene, o magari persino meglio, a casa, accanto alla mia antica libreria di noce, dove i testi che raccontano quelle vecchie storie sono disposti in ordine cronologico, in edizioni filologicamente corrette. Sembra strano volere imbarcarsi su un aereo stracarico per raggiungere lo scenario ormai scomparso dei libri che ho già comodamente a portata di mano a casa mia. Questo è vero. Ma esiste anche una verità alternativa. Conosco bene e mi è particolarmente cara l'esperienza di quando una buona storia prende il sopravvento sulla realtà e la rende momentaneamente superflua. Ma il fenomeno di cui sto parlando, quello che mi attira ogni volta di nuovo verso la Grecia, è segnato proprio dall'interazione delle storie con il mondo reale. Quello che mi affascina è la capacità delle storie di trasformare la realtà visibile e tangibile. Credo di non essermi espresso bene. È qualcosa di più di una semplice fascinazione. Se posso permettermi per un momento di rifarmi al noto lamento sul disincanto del mondo, direi che in Grecia posso sperimentare la magia creduta perduta dei grandi racconti che aggiungono profondità, mistero e senso alla banalità dei fatti verificabili. E non lo trovo soltanto interessante, come potrei restare affascinato da un'illusione ottica, ma lo vivo anche come un sollievo. Non posso dirlo diversamente. Quando posso legittimamente pensare che sotto la superficialità del quotidiano che sono costretto a guardare si celano antiche storie, mi sento sollevato e consolato. Sub diversi speciebus, dice Tommaso d'Aquino nel suo Lauda Sion Salvatorem, signis tantum et non rebus latent res exi mie. Sotto diverse apparenze, che sono solo segni e non la realtà stessa, si nascondono cose straordinarie. In questo mondo da cui abbiamo schiacciato gli dèi e Dio e che da allora ci sembra più vuoto di un pallone da spiaggia e più piatto di una pizza, io e come molti altri sono dominato dal desiderio di cogliere almeno un'ombra di significato. È per questo che io e come molti altri sono incline contro ogni buon senso a credere che le cose non sono ciò che sembrano e che dietro di esse ci celano realtà molto più grandi. Abbiamo perso la fede nelle grandi storie, come spesso si sostiene, ma quella liberazione da dogmi e ideologie, che certamente va vista come un fatto in gran parte positivo, ha lasciato anche un vuoto che percepiamo come mancanza e che solo le grandi storie segrete sembrano poter colmare. Quando in Grecia ascolto i miti e la storia che sussurrano tra le rovine e nei suoni antichi dei toponimi, questa superficialità che abbiamo conquistato a fatica alla nostra superstizione torna a riempirsi di storie e a volte mi sembra di sentire l'eco dell'addio degli dèi. A onor del vero devo aggiungere che percepisco come un piacevole effetto collaterale il sospetto di essere nel luogo in cui mi trovo l'unico o uno dei pochissimi capace di cogliere questa verità più profonda che si cela sotto la verità. Quel sospetto mi regala quella fiera malinconia che scuote il capo con indulgenza dinanzi all'ignoranza degli uomini e che, per il resto, rende un uomo piacevolmente silenzioso. Sempre dal Letterature Festival 2025, Ilya Leonard Pfeiffer con Ritorno in Grecia. Dal Letterature Festival 2025, Andrea Baiani con Undocumented Memories. Di tutta la storia di nostro figlio sin qui, che nei 2 anni e mezzo che lo separano dalla sua nascita è documentata da una media di circa 20 fotografie al giorno scattate dal cellulare, restano non documentati soltanto i giorni compresi tra il 22 e il 26 gennaio 2020. L'ultima foto del 22 gennaio ritrae nostro figlio mentre legge, se così si può dire, un libro di stoffa nel suo passeggino. Con ogni evidenza è stato messo in posa per il tempo necessario a scattare la foto. Non ha ancora 5 mesi, non è in grado di sfogliare le pagine, ma è la sua prima fotografia da lettore. La prima foto del 26 gennaio non è una fotografia, ma è un video. È sul nostro letto da solo, con una cortina di sicurezza di cuscini e agita le gambe e le mani guardando il soffitto. In sottofondo Raffi canta Apples and Bananas. Nostro figlio ride, credo, o piuttosto esercita le corde vocali. Il video dura 33 secondi, dopodiché scoppia a piangere e il video si interrompe. In un giorno compreso tra il 22 e il 26 gennaio del 2020, nostro figlio è stato portato d'urgenza al Children's Hospital di Houston, Texas, per un episodio improvviso di convulsioni avvenuto mentre tornavamo a casa in macchina, dopo aver cenato rapidamente alla House of Pies sulla Kirby Drive. Dopo un'esplosione di pianto inconsolabile nel parcheggio e il tentativo vano di calmarlo, nostro figlio ha poi perso conoscenza mentre ci dirigevamo verso casa. Io guidavo, mia moglie sedeva dietro accanto a lui. Quello che so di quanto è successo in quei momenti successivi alla cena è il racconto che mia moglie me ne fece in diretta e l'espressione sulla sua faccia che vedevo nello specchietto retrovisore mentre lei ripetutamente e sempre più in affanno lo chiamava per nome china su di lui, fino a dirmi, cercandomi gli occhi dentro lo specchietto, andiamo in ospedale, mentre io le chiedevo di descrivermi cosa stesse succedendo. Nostro figlio taceva, mia moglie cercava di riportarlo a sé invocandone il nome e infine mi passava il telefono con una voce, la voce della signorina del GPS, che mi dava istruzioni per raggiungere il pronto soccorso. Al pronto soccorso e poi nei giorni successivi, di fronte alla richiesta dei dottori di spiegare che cosa fosse successo, mia moglie avrebbe ripetuto decine di volte la stessa versione dei fatti. Di colpo, il bambino è scoppiato in un pianto convulso, diverso dal solito. In macchina ha perso conoscenza, ha smesso di rispondere a ogni richiamo, poi ha dato alcuni colpi in aria con la testa, poi basta. L'ultimo ricordo che ho di nostro figlio prima di entrare in ospedale, dove venne disposto il trasferimento immediato, è dentro il suo vetto da macchina, mentre viene assicurato con le cinture nell'ambulanza. Nel frattempo si è risvegliato, gli hanno fatto un prelievo del sangue. Sono le 10 di sera e accanto a lui mia moglie telefona per accertarsi, prima di autorizzare l'ambulanza a partire, che l'ospedale dove ci hanno destinati sia compreso nel network della nostra assicurazione sanitaria. Io sono seduto in macchina con il motore acceso, pochi metri dietro di loro. Qualche minuto dopo mia moglie mi fa cenno con la mano che possiamo procedere. Sale sull'ambulanza, un infermiere chiude il portellone e sale davanti. Partiamo accodati, li seguo da vicino. Niente sirene, velocità moderata. Mentre guido ricevo un messaggio di mia moglie sul telefono, se ci perdiamo mi scrive, questo è l'indirizzo dell'ospedale. Lo copio sul GPS, lascio che la voce del mio navigatore che parla italiano mi ci conduca. Non penso a niente, guido, tengo gli occhi fissi sull'ambulanza, supero quando supera, rallento quando rallenta. Temo il giallo ai semafori, ma se l'ambulanza prosegue, proseguo anche io. La voce di donna che storpia i nomi di tutte le strade sul telefono mi rassicura. È l'unica complice nella mia lingua. Sono i primi 15 giorni della mia vita americana. A tutt'oggi non so il giorno esatto in cui nostro figlio è stato ricoverato in ospedale per convulsioni. Potrei chiederlo a mia moglie, con ogni probabilità lei riuscirebbe a risalire alla data. Ma non è un episodio di cui parliamo volentieri. Una cosa è certa, la durata del ricovero fu di 24 ore. Passammo una notte nella stanza d'ospedale che ci fu assegnata. Ora che ne scrivo, però, di colpo non sono certo che sia stata una notte soltanto. Di nuovo, potrei andare a chiedere a mia moglie, ma si è appena svegliata e non voglio costringerla a iniziare la giornata pensando a questo. Sono le 5 del mattino, nostro figlio dorme nella sua stanza, sorvegliato da uno Snoopy che vola in aereo sulla parete che sovrasta il suo letto. Queste prime ore del mattino sono ore che dedichiamo alla corrispondenza, alla scrittura o al silenzio con il caffè e la lettura dei giornali. Quando lui si sveglierà, tutto prenderà a correre e non ci sarà tempo per nulla, sarà tutta emergenza che finirà quando lo lascerò al nido e mi manderà un bacio prima che la maestra chiuda la porta e lui corra a lavarsi le mani salendo sul gradino davanti al lavello, alle 8. Che il ricovero sia durato 24 o 48 ore, la mancanza di documentazione è più lunga del tempo trascorso in ospedale. Non ci sono fotografie dell'ospedale, dell'edificio, dei corridoi e neppure della stanza o della lussuosa area giochi del reparto, né del ritorno a casa, se non appunto fino a 4 giorni dopo, quando nostro figlio è nel passeggino che sfoglia le pagine di un libretto di stoffa. Perché non abbiamo fatto fotografie? La risposta, anche ora che sono passati anni da quei giorni, sembra ovvia. Avevamo altro da fare, eravamo troppo in angoscia per pensare alle foto. Il telefono lo usavamo soltanto per chiamare o per cercare informazioni o per capire quello che i neurologi, i pediatri, gli infermieri ci dicevano. Per avere contezza di che cosa stava capitando a noi e di cosa stava capitando a nostro figlio, che cos'erano quei farmaci che gli stavano somministrando, perché l'encefalogramma, che cosa significava o poteva significare un episodio di convulsioni in un bambino di 4 mesi. Il telefono era un dispositivo di difesa, non di memoria. Ogni tanto un dottore entrava nella stanza e chiedeva a mia moglie di raccontare per l'ennesima volta e nella maniera più dettagliata possibile che cosa fosse successo al momento della crisi. Dopodiché visitavano lui, gli controllavano le pupille, verificavano che rispondesse agli stimoli, che scalciasse quando doveva scalciare, che le braccia si sollevassero come era previsto facessero. Quando i dottori andavano via, cercavamo sul telefono le parole che ci avevano detto. Mi interrompo nella scrittura per verificare che siano effettivamente 4 i giorni di ricordi non documentati nel gennaio 2020. Da allora ho cambiato 2 telefoni, ma le fotografie sono ancora lì, per il semplice fatto che non sono lì, sono altrove, nel cloud. Il buco della nostra memoria familiare è archiviato in un punto non accessibile dell'atmosfera terrestre. E lì resterà almeno fino a quando continuerò a pagare i miei 99 centesimi mensili. Nel caso dovessi smettere di pagare, si dissolverebbe. Il primo dei ricordi documentati sul mio telefono, che coincide anche, presumo, con la sottoscrizione del cloud, è dell'8 gennaio, 2 settimane prima del 22. È il mio primo giorno americano, il giorno del nostro trasferimento da Roma a Houston. La fotografia include nostro figlio, naturalmente. Il suo passeggino è davanti alla nostra prima casa americana. Occupa una porzione minima della foto per permettere alla casa di stare tutta dentro l'inquadratura. Questa fotografia è stata inviata agli amici più stretti pochi istanti dopo essere stata scattata. Ecco il mio American Dream. Non conservo le risposte degli amici, però ricordo la straordinaria coerenza. Tutti scrivevano, sembra di stare in un film. Solo che quella casa non era nostra, era un Airbnb che avevamo affittato per il primo mese per prenderci il tempo di cercare un posto con calma. Nella stanza da letto è stata scattata l'altra foto conservata nella memoria del mio telefono e sul cloud. Ci sono io che cambio il pannolino a mio figlio sul letto. La foto è presa dall'alto, io sono inginocchiato ai piedi del letto. La successiva, sempre dell'8 gennaio, è una foto notturna, la mia prima passeggiata americana. È un'insegna, Bambolinos, pizza by the slice, e una bandiera italiana dipinta sulla facciata. Nostro figlio fa sostanzialmente da modello in tutte le foto. Il 9 gennaio dorme dentro il passeggino in cucina. Alle sue spalle l'arredo dell'appartamento ammobiliato che abbiamo preso in affitto. Il 10 gennaio sono quasi tutte fotografie di pick-up, più una vecchia Buick parcheggiata. Poi ci sono io che metto a dormire nostro figlio, cullandomelo in braccio. Poi è dentro una sedia a forma di rana che ci guarda e ride raggiante. Il sonno è durato poco. Ancora una volta dilato la foto con la punta delle dita, fino a lasciare dentro soltanto il volto di mio figlio. A anni di distanza cerco sulla sua faccia la premonizione di quello che in realtà è già successo. Dilato con i polpastrelli la faccia di un bambino felice. La scompongo nelle sue parti, diventa naso, bocca, occhi. Cerco degli indizi delle convulsioni nella piega delle labbra. In alcuni scatti del 10 gennaio la parte sinistra della bocca tira verso il basso. Avrebbe dovuto metterci in allarme quell'anomalia? Ce ne accorgemmo riguardando quelle immagini nei giorni successivi al ricovero, ma quella foto appena fatta e quella faccia ci fecero ridere per giorni. Il 12 gennaio nostro figlio è ancora dentro la rana, 9 fotografie. Il 13 gennaio la foto del mio social security number sono dentro la macchina burocratica americana. Del 15 gennaio ho 15 fotografie, tutte nello studio del pediatra. È una visita di controllo, nostro figlio è sdraiato di schiena sul lettino. La pediatra non lo ha ancora visitato, né l'infermiera gli ha somministrato il vaccino. Lui è allegro. Le foto servono soprattutto per documentare cosa c'è oltre la vetrata. Grattacieli, America. Non è documentato quello che disse la pediatra, va tutto bene. È un bambino sano e allegro. I giorni successivi le foto si somigliano tutte, macchine, bambino, grattacieli, case. Il 22 gennaio nostro figlio legge un libro di Stoffa dentro il passeggino. Nostro figlio sta bene. Mentre scrivo è all'asilo nido, ho interrotto la scrittura per vestirlo e poi metterlo in macchina. Ultimamente vive un momento difficile, fatica ad addormentarsi la sera, ci vuole vicino finché non perde conoscenza. Se usciamo dalla stanza, cosa che facevamo fino a 10 giorni fa senza che questo provocasse reazioni, scoppia in un pianto disperato. Sta imparando anche a usare il vasino. Fatica, a volte trionfa, a volte si intristisce se non ci riesce. Cerchiamo consigli su Google. Pare che sia tutto normale, sono i 2 anni. Passerà, passerà anche questa fase. Ne arriverà un'altra. Ma nostro figlio sta bene. Quando vado a prenderlo al nido alle 4, mi dicono sempre he had a great day. Torna a casa pieno di energia, corre, salta, ci vuole sempre intorno, ma difficilmente accetta che ci siamo entrambi contemporaneamente. È convinto che se siamo in 2 a giocare con lui, l'attenzione che riceve venga dimezzata invece che raddoppiata. Delle convulsioni di nostro figlio non si è mai trovata traccia nel suo tessuto cerebrale, né durante il ricovero né successivamente. Per tutta la durata del nostro soggiorno in ospedale si è cercato di frugare nel suo cervello alla ricerca di danni temporanei o permanenti. Noi abbiamo giocato con lui mentre la sua testa era piena di elettrodi che cercavano di capire cosa fosse successo. Dalla sua testa gli elettrodi, collegati a una macchina e a un display, producevano numeri e grafici che non sapevamo interpretare. Ogni tanto entrava qualcuno, controllava e poi usciva. E noi giocavamo, mia moglie cantava I've been working on the railroad, la fronte appoggiata alla fronte di nostro figlio. Ho imparato in quei giorni a piangere da dentro, mentre fuori ridevo per farlo ridere e lui rideva sotto gli elettrodi. Eppure di quell'episodio di convulsioni non è rimasta traccia. Neanche l'attacco in cui è stato infilato alla ricerca di un'eventuale massa, come si dice, ha mostrato nulla. È entrato nella macchina docilmente addormentato dopo che io gli ho cantato più volte di seguito nella vecchia fattoria, piangendo da dentro, cantando fuori dalla bocca, in un soffio, fino a che il respiro si è fatto grosso e hanno portato via la barella con accanto mia moglie mentre io venivo dirottato in una sala d'aspetto. Su uno schermo immenso passava una partita di football. Correvano e se le davano di santa ragione. Di tutti i pensieri che ho fatto, nessuno riguardava mio figlio. Sarei franato, ma ho pensato che tutto quello che avevo considerato da sempre il mio dolore, di colpo contava pochissimo. Che avevo fatto anni di terapia per salvarmi da quello che mi era sempre sembrato un dolore insostenibile e che però, al cospetto di quello che stavamo vivendo lì dentro, in quell'ospedale, non era nient'altro che pettegolezzo. Nostro figlio sta bene. Non si è mai capito che cosa sia successo. Delle convulsioni, a tutt'oggi, resta traccia solo nel racconto che ne ha fatto mia moglie. Di colpo il bambino è scoppiato in un pianto convulso, diverso dal solito. In macchina ha perso conoscenza, ha smesso di rispondere a ogni richiamo, poi ha dato alcuni colpi in aria con la testa, poi basta. I dottori ci hanno detto che soltanto il racconto li autorizzava a dire che era stato un episodio di convulsioni, che forse sarebbe valsa la pena sottoporlo a un ulteriore elettroencefalogramma più lungo per verificare l'attività cerebrale nell'arco di 24 ore successive. Un giovane neurologo lo ha visitato un paio di settimane dopo e ci ha detto che in verità lui non riteneva più necessario l'elettroencefalogramma. Questa storia finisce con l'ultima visita dal giovane neurologo, un mese dopo il ricovero. Nostro figlio lo riconosce, gli sorride, ci gioca. Il dottore verifica che i riflessi funzionino nel modo in cui devono funzionare. Tace mentre lo visita, ha mani gentili, dita lunghe che esercitano pressione sugli arti del nostro bambino. Ci chiede se nel frattempo abbiamo notato qualcosa di anomalo nei suoi comportamenti o nelle sue espressioni. Gli mostriamo le foto in cui la parte sinistra della bocca tira verso il basso, quelle precedenti il ricovero e alcune successive. Il dottore le guarda, poi fa il solletico a nostro figlio con la punta delle dita sopra il petto. Nostro figlio ride. Il dottore dice: sta provando la sua faccia. Alla fine ci chiede di rivestirlo, ci dice che non c'è molto da aggiungere, che non c'è nulla che possa documentare quello che è successo, ma che dalla descrizione che abbiamo fornito sicuramente si trattava di convulsioni. E quindi chiediamo. E quindi i bambini sono misteriosi. Non si può dire altro che questo, ci dice. E poi ci siamo noi tre che torniamo a casa in macchina. Non c'è ritorno che io ricordi con più nettezza, anche se non è documentato. Cambiavamo strada sulla via di quel ritorno per non passare davanti alla House of Pie, nonostante la signora del GPS mi inviti in italiano a prendere per di là. Poi c'è il video del 26 gennaio in cui mio figlio è seduto sul letto che agita le gambe e le braccia mentre Raffi canta Apples and Bananas. Non ci sono più foto di pick-up. Alla House of Pie non siamo più tornati. Dal Letterature Festival 2025, Andrea Baiani con Undocumented Memories. Dal Letterature Festival 2025, Elvira Mugiz con Un luogo sicuro. Per rispondere alla sua domanda, devo cominciare dalla mattina in cui avevo smontato dalla portineria dell'albergo di Via del Boschetto e mi ero incamminato a piedi verso Via Piave. Sì, lo so, sono luoghi che non le dicono nulla. In casa c'erano Maurizio e Liliana, seduti al tavolo con il tè, le fette biscottate, il barattolo di miele e il famoso kefir di cui andavano fieri e allevavano come fosse un figlio, il figlio che non avevano avuto e che speravano di aver trovato in me. Invece non era andata bene, cioè era andata meglio col kefir. Io non mi lasciavo prendere e il kefir se ne stava buono, buono in frigo. Invece io mi divincolavo, non potevo sopportare quella vicinanza, la richiesta continua di legarmi, di stringermi a sé. Non così tanto, non così stretto, brontolavo. Ma loro lo prendevano come un rifiuto. Non lo era, mi creda. Chi ero io per rifiutare i meravigliosi Maurizio e Liliana di Via Piave a Roma? Quella mattina Liliana aveva sparato secca la notizia che stavano per imbarcarsi in una seconda adozione. Un ragazzino del Sudan, aveva specificato. Maurizio era intervenuto per smussare l'impatto, ma non era uscito nulla di buono. Anzi, erano volate parole dure, investimenti, delusioni, fallimenti, perdite. Che ci faccio qui? Mi son chiesto, improvvisamente uscendo da casa loro quel giorno. Non avrei dovuto pormi questa domanda. L'avevo abilmente evitata per decenni. Non sono scemo. Mi era sempre stato chiaro che avrebbe aperto una spirale di questioni devastanti. Sul fondo di quella spirale mi attendeva il sito del Flixbus e l'acquisto di un biglietto di sola andata. Durante il miliardo di ore di viaggio avevo avuto tutto il tempo di scrivere a chiunque conoscessi là, cioè qua. In realtà non conoscevo davvero nessuno, ma grazie a Facebook avevo ritrovato diversa gente che portava il mio stesso cognome. Qualche zia, zio, cugino, vicino di casa, amici di amici, e un amico dei tuoi mi scrivevano, inoltrando nomi mai sentiti. C'era una casa, avevo appreso sempre per la stessa via, una casa forse intestata a me, e la scoperta mi aveva parecchio ringaluzzito. Avevo provato a immaginarmela, a pensarmi là dentro. Mi ripetevo che era proprio quello che andavo cercando. Un luogo dove sentirmi al sicuro. Quattro mura ammucchiate a svelarmi chi sono. Che dire, quando l'autobus mi ha scaricato lì davanti, ho dovuto riavvolgere il nastro delle mie fantasticherie e accettare la realtà dei fatti. A prima vista era poco più di un rudere, da vicino aveva qualche parvenza di casa, una porta d'ingresso, seppur marcia sul fondo, le finestre con vetri sottili e legno gonfio. Dentro addirittura un tappeto, liso, blu scuro, con arabeschi color oro. Due poltrone usurate puzzavano di muffa. Non era quello che mi ero immaginato mentre roteavo dentro il Flixbus. Ma non mi spaventava, anzi, tutta quella devastazione pompava un'adrenalina mai provata. Mi guardavo intorno e pensavo, c'è tutta questa roba da riparare, da sistemare, da aggiustare, ricostruire. Mandavo messaggi euforici agli amici rimasti là, dalle parti di Via dei Sabelli. Gli rovesciavo addosso parole a raffica per spiegare la sensazione di vita che emanava quel luogo, cioè di morte, ma proprio perché di morte anche di vita. Una vita diversa però da quella che conoscevano loro dalle parti di Via dei Sabelli o di Via Piave. Una vita feroce. Ma non capivano. Invece lei annuisce, vedo, sa cosa intendo. L'amica più sensibile e psicologa mi domandava se magari non mi era risalito tutto, se non fosse il caso di farmi aiutare. Tutto cosa? Scagliavo il cellulare contro la poltrona che avevo davanti, sull'altra ero seduto. Sì, avevo messo queste due poltrone, una di fronte all'altra, come se stessi aspettando qualcuno. Poi uscivo. Andavo in giro per strada a cercare qualche volto conosciuto, un parente, un cugino, un amico dei miei. I messaggi su Facebook mi avevano ingannato. Qui non ci abitava quasi più nessuno. La maggioranza dei miei cosiddetti parenti era emigrata in quella che consideravano la madrepatria imperiale, l'Austria. Comparivano d'estate, sicuramente a luglio per l'anniversario. Restavano qualche settimana in agosto, niente più. E io invece me ne andavo in giro così, come un razzo sparato, fischiavo lungo le strade, una carica selvaggia nelle gambe. Se mi fermavo a parlare con gli sconosciuti, saltellavo sul posto. Però dicevo cose normali, del tipo, hai visto che bella giornata? Chissà se c'è qualcuno su da Beli a bersi una birra? Fanno vedere il tennis stasera? Il calcio è superato, questa è l'epoca del tennis. La gente mi guardava come fossi un pazzo. Forse perché saltellavo? Ma più probabilmente per come parlavo la lingua. Molto male, bisogna ammetterlo. Con un accento assurdo, errori grammaticali imbarazzanti. Si scansavano come se volessero mettere una distanza tra noi. Mi sembrava che quando entravo in un bar, in posta o dal barbiere, quelli che stavano dentro si ammutolissero, come se diffidassero di me. Ma tu, di chi sei esattamente? Chiedevano con un ghigno che mi metteva a disagio. Sciorinavo i nomi e i cognomi. Reagivano con un rantolo. Era il loro modo per ricordarmi, nel caso fossi così idiota da non averlo capito, che appartenevano all'altra parte. Mi lasciavano addosso una brutta sensazione, un brivido di gelo sulla schiena. Allora mi rifugiavo da quelli della mia parte, per lo più vecchietti e vecchiette, che non avevano avuto dove andare ed erano tornati lì. Mi accoglievano nelle loro case devastate ma rattoppate e mi culavano come fossi un pulcino. Mi chiedevano ogni volta di riraccontare come era andata quell'11 luglio del 1995, quanti anni avevo, eravamo andati giù alla base ONU, chi mi aveva separato dai miei genitori, ricordavo qualcosa di loro o del viaggio sull'autobus per Tuzla? La notte avevo dormito nella tenda della Croce Rossa? Come ero finito in Italia? Chi erano le persone che mi avevano adottato? Io costruivo una storia, distrattamente, tornavo a pescare laggiù dove i ricordi si mescolavano alla fantasia, dove una mano premurosa aveva deciso di nascondere ai miei occhi quel che non potevano sopportare di guardare. Tornavo giù un po' troppo audace, smuovevo il fondo, facendo pericolosamente volteggiare i detriti della memoria. Gli uomini si accendevano la sigaretta e scuotevano la testa, ascoltando le mie parole. Le donne si asciugavano gli occhi. Allora io mi sentivo in colpa e dicevo, ma no, non fate così, è passato, sono passati 30 anni. Ero un bambino e ora ho 36 anni, guardate, guardate quanto sono grande. Guardate, non mi fa male da nessuna parte. La vita è andata avanti. Le confesso che non mi faceva bene rivangare dentro tutta quella roba. Non mi faceva bene stare con questa gente. Me ne ero accorto perché facevo fatica a prendere sonno. Nell'istante esatto in cui il corpo sembrava cedere, appena avvertivo quel leggero senso di caduta nel nulla, trasalivo e mi svegliavo con il cuore che pulsava nelle tempie. Mi alzavo, prendevo la bottiglia di grappa, le sigarette, mi mettevo alla finestra e guardavo fuori. Fuori. I resti della casa di fronte alla mia penzolavano da 30 anni in maniera precaria. Le sue macerie col tempo erano diventate più profonde e inquietanti, le ringhiere di ferro si erano arrugginite, i muri anneriti, i rivoli d'acqua avevano gonfiato la facciata. Una finestra senza vetri ciclicamente si apriva col vento e sbatteva fino a quando un colpo secco non la richiudeva di nuovo. Non essendo riuscito a riparare nulla, avevo preso a riversare la mia rabbia su quei mostri architettonici. Ne era pieno, mi ossessionavo per riuscire a isolare almeno una porzione di paesaggio, un quadratino di strada, uno spaccato di cortile, trovare insomma almeno un luogo sicuro dove poggiare lo sguardo e non essere trafitto dall'angoscia. Ogni mattina uscivo e stupidamente mi illudevo che sarebbe stato diverso, che nottetempo la cittadina potesse essersi trasformata in un posto normale, dove puoi camminare rilassato, invece di stare con le spalle e il collo contratti, pronto a incassare il colpo dei crateri sulla strada, delle staccionate semicarbonizzate, dei tetti collassati da cui spuntavano alberi di prugne. Per non parlare dei cassonetti, quelli mi facevano proprio uscire fuori di testa. Come, perché? Sono cassonetti che stanno lì da quegli anni, cioè sono stati lì durante tutto il periodo. Io non potevo passarci vicino. Attraversavo la strada, appena ne intravedevo uno davanti a me. Avevo il terrore che da dentro potesse saltar fuori qualcosa. No, non un topo, che mi frega dei topi. Qualcosa di peggio. Seduto in casa sul mio trono sfondato, rivolto alla poltrona dove via via ospitavo gli assenti, parlavo tra me e me, mi consultavo, cioè con me stesso. Dopo anni avevo ricominciato a sognare, proprio lì, tra le mura della mia infanzia monca, che continuava a far male come un arto fantasma. Nei sogni qualcosa risaliva su, bagliori, scatti, il volto di mia madre, gli occhi di mio padre. Forse perché un cugino mi aveva regalato una loro fotografia, una di quelle belle, di quando erano giovani. Poi però mi era venuto in mente che non erano mai diventati vecchi, nemmeno adulti. Sulla lunga lastra di marmo del memoriale, accanto ai loro nomi, ci sono due date, 1967-1995. I giorni qui non passano, lei lo sa meglio di me. Il tempo è incatenato quasi tutto l'anno, solo verso la fine di giugno qualcosa inizia a muoversi, a strisciare. È il segnale che si avvicina l'anniversario. Quest'anno saranno 30 anni, che però non sono passati. Si sono solo ammucchiati uno sopra l'altro, vuoti, flosci, miseri. Nei giorni dell'anniversario si usano parole chiare, si dice a gran voce genocidio, si rilasciano interviste, si contano le ossa. Quante sono state trovate quest'anno? Quante ne mancano? Dopo 30 anni sottoterra, cosa resta del materiale biodegradabile di cui siamo fatti? La mattina poi ci si sveglia e qualcuno ha scritto sul muro «Non è mai successo». Qualcun altro «Ve lo faremo ancora». E a me toccava continuare a passare vicino ai cassonetti. Saltavo in aria dalla paura, se sentivo un rumore, non so, mi ero fissato che potesse uscire qualcosa di letale da quei cassonetti. Dicono che succede così. Quando non riesci più a raggiungere con la memoria quel che t'ha segnato fatalmente, allora temi che si nasconda ovunque e che possa assalirti quando meno te l'aspetti. Io non riuscivo a tornare più a quel momento, non me lo ricordavo. Non sapevo chi mi aveva preso dalle braccia di mia madre. Era mia madre a tenermi? O magari mio padre? Avevo strillato come fanno i bambini quando li si allontana dai genitori, oppure mi ero ammutolito? Non ricordavo, eppure quella cosa che non ricordavo aveva guidato e deragliato la mia vita intera. La notte mi rigiravo nel letto. Sa come succede di notte? Ci si fissa con delle ossessioni e non se ne esce. Io mi ero incastrato in questo pensiero. Se mia madre e mio padre si erano decomposti sottoterra e non erano stati trovati, se loro erano tornati elementi inseparabili dalla natura, allora c'è un tempo oltre il quale è da pazzi conservare le proprie rovine. Se le cose stavano così, se potevo far pace con la loro dissoluzione, perché cazzo dovevo essere costretto a guardare tutti quei mostri architettonici? Bisognava trovare una soluzione, mi ripetevo, non potevo continuare così. Ecco allora l'idea. Mi è venuta, aspetti, da quanti giorni sono qui? 7. Allora mi è venuta proprio il giorno prima, 2 al massimo, non ci ho rimuginato troppo, mi è sembrata subito buona. Bruciare tutto, avevo pensato. Appiccare un fuoco e bruciare le macerie, i maledetti cassonetti, le carcasse di certi modelli di macchine fuori commercio da decenni ormai. Appiccare il fuoco, rigenerare, lasciare che ricrescano alberi, piante, che si installino uccelli, animali, che l'erba ricopra la terra smossa, che il ciclo della vita ricominci senza i fantasmi delle case vuote le cui finestre senza vetri sbattono in eterno sul tuo cranio scandendo il tempo del terrore. Avevo comprato qualche tanica di benzina e me ne ero andato in giro così, questa volta con sguardo scientifico, ispezionavo e mappavo ciò che bisognava rimuovere. E poi niente di fatto. Sa meglio di me com'è andata. Qualcuno deve avermi seguito, lo stesso che poi mi ha denunciato. A ripensarci, credo che la mossa sbagliata siano state le taniche di benzina. Il tizio del distributore non si capacitava della mia richiesta. Non avevo la macchina, nessun attrezzo che andasse a benzina. Deve essersi insospettito, vi ha avvertiti lui, vero? Non ho fatto in tempo a versarne nemmeno una goccia che siete arrivati con 3 volanti e mi avete sbattuto qui. Un dispiegamento di forze comico, vista la portata del mio crimine. Chissà che paese meraviglioso sarebbe questo se ci metteste lo stesso impegno con i criminali di guerra che invece lasciate passeggiare liberamente qui, fuori. Lei dice... Il cemento non brucia? La pietra non brucia? Quel che è stato non può essere cancellato? Io le dico che lei ha un po' ragione e un po' torto. La pietra non brucia, è vero, ma noi non siamo fatti di pietra. Quel che è stato può essere trasformato. La memoria è una forza sotterranea che non si lascia contenere, si insinua nelle crepe per uscire alla luce del sole e germogliare. Io mi arrovello su una sola cosa, però, e la chiedo anche a lei. Se non sboccia, ma pietrifica, a che serve? Ah, ma lei insiste. Il mio gesto è antipatriottico. Le mie parole offendono il ricordo dei miei genitori e di tutti i morti. Lei non mi ascolta. Io non volevo cancellare la memoria dei morti. Volevo far ricominciare il tempo dei vivi. È una cosa diversa. Far ricominciare il tempo. Come rimettere le batterie nuove all'orologio fermo. Ha presente? Sbloccare e far ripartire il ticchettio, il battito, la vita. Dal Letterature Festival 2025, Elvira Mugiz con Un luogo sicuro. Da Letterature Festival 2025, Gioia Salvatori con L'ultima neve di Sayaka Murata. L'albergo che Igarashi Kotone mi aveva prenotato non era male. La camera era provvista di vasca da bagno, letto enorme, finestra con splendida vista sul fiume e addirittura una graziosa kitchenette con tanto di ottima colazione inclusa. In yen costava più di 100.000 a notte, ma nel rendermene conto non rimasi particolarmente stupito, visto che spesso le persone che si apprestano a lasciare questo mondo smettono di badare al valore del denaro. La richiesta da parte di Igarashi Kotone mi era giunta un paio di mesi prima. Al lavoro dissi che avevo bisogno di tornare dai miei perché mio padre doveva sottoporsi a un intervento chirurgico e presi una settimana di ferie. Le persone che, come me, svolgono un secondo lavoro come assistenti al suicidio non sono poche, ma io ho deciso fin dall'inizio di accettare incarichi solo da clienti privi di esigenze specifiche e che siano disposti a tutto pur di morire. Molti nutrono preferenze ben definite, quasi irrinunciabili, però d'altra parte io so che purtroppo è impossibile esaudire tutti i desideri. Ho un sacco di amici convinti che fare l'assistente al suicidio sia un buon lavoretto part-time. Senza riflettere, mi ripetono che quasi quasi vorrebbero provarci anche loro. Ma in realtà non è per niente semplice. Una delle mie prerogative consiste nell'aver massimo rispetto per la morte del cliente. Perciò mi preme mettere in chiaro fin dal primo momento che non è mai facile garantire una fine soddisfacente. Di conseguenza capita con una certa frequenza che il cliente di turno si senta abbandonato, trattato con freddezza. Ed è per questo che ho sempre preferito dare priorità a coloro che si limitano a chiedere di morire in un modo qualsiasi, soffrendo il meno possibile e che considero inappropriati e pretenziosi sia richieste troppo singolari, sia il tentativo stesso di assecondarle. Il messaggio che Igarashi Kotone aveva inviato sul mio account recitava: «Vorrei morire a Zurigo. Alle spese di viaggio, alla modalità e a tutto il resto provvederò io. Le chiedo soltanto di assistermi, essenziale, diretto. Sulle prime mi lasciò perplesso, indeciso se rifiutare o meno. Poi un messaggio dopo l'altro, accertatomi che tranne la precisa volontà di esalare l'ultimo respiro a Zurigo non aveva altri desideri né aspettative nei miei confronti, finii per accettare. Di solito la remunerazione per l'assistenza al suicidio è calcolata su base oraria, soprattutto in virtù del fatto che spesso le richieste dei clienti sono varie e numerose, ma stavolta mi accontentai di un compenso forfettario. Il giorno dell'arrivo a Zurigo, dopo le tante ore di volo, mi doleva la schiena, ero stremato. Lasciai la valigia in albergo e mi recai subito sul luogo dell'appuntamento, un caffè in riva al fiume, dove trovai ad attendermi Igarashiko Tone, grosso modo identica a quando ci eravamo visti in Giappone. Meno male, mi sentii sollevato. Assistere nel suicidio persone che si aspettano chissà cosa dalla morte può risultare oltremodo complesso. Mi rincuorò constatare che la mia cliente non sembrava per niente estasiata da quell'incantevole paesaggio sulla sponda del fiume. In Giappone molti si illudono che andando in Svizzera e pagando una certa cifra chiunque possa usufruire dell'eutanasia. E spesso mi tocca spiegare con estrema pazienza che invece non è affatto così. Per fortuna Igarashiko Tone era bene informata e appariva assolutamente serena e tranquilla. Mia zia aveva un appartamento di proprietà qui in città, mi disse. Attualmente non ci abita nessuno ed è pressoché vuoto, a parte un grande frigorifero che ho provveduto a far installare io stessa. Nel giorno stabilito andrò lì e assumerò dei sonniferi che mi aiuteranno a dormire profondamente. Però temo che solo con le pillole potrei anche sopravvivere e perciò vorrei che lei mi chiudesse nel frigorifero dopo che mi sarò addormentata. Provai un ulteriore sollievo. La modalità scelta era molto semplice e il rischio di essere arrestato minimo. Forse perché aveva colto il mio stato d'animo, Igarashiko Tone esibì un lieve sorriso e prese un sorso di caffè. Rinchiusa nel frigorifero, anche escludendo l'effetto del sonnifero, aggiunse, credo che finirei per morire di asfissia, ma per sicurezza forse converrà abbassare la temperatura al massimo, selezionando la modalità congelatore. Lei che ne pensa? Direi che è un'ottima idea. Ha già predisposto i farmaci? Sì. Ne ho preparato una dose in grado di abbattere chiunque fino al giorno successivo. Perfetto. In ogni caso le lascio anche quelli che ho portato io, non si sa mai. Dopo che avrò provveduto ad assisterla, desidera che mi accerti della sua morte prima di andare via. Ha richieste particolari? No, va bene così. Evitai di chiederle come mai avesse scelto proprio quel posto per morire. Qualcosa mi diceva che preferisse non rispondere a troppe domande. Poi occupai il tempo facendo qualche bagno al lago e dando un'occhiata ai libri in una vecchia biblioteca. Mancavano 3 giorni alla data pianificata e io e la mia cliente ci sentimmo unicamente tramite email e messaggi per mere questioni pratiche, senza mai più incontrarci di persona. La mattina della fatidica domenica scelta per il suicidio, il cielo era sereno a perdita d'occhio. Presi il tram e mi diressi all'indirizzo che mi era stato indicato. Aprii la porta con la chiave affidatami al caffè in riva al fiume nel giorno del mio arrivo. In cucina non c'era niente, né il frigorifero né una credenza. E anche quella che sembrava la camera da letto era completamente vuota. Nel soggiorno, uniche presenze, Igarashiko Tone addormentata su una piccola coperta e un frigorifero di grandi dimensioni. In quella stanza, senza neanche un tavolo, come preso dall'ansia di essere rimasto coinvolto in qualche crimine, sentii il ronzio del frigorifero che fendeva l'aria immobile. Al suo interno non c'era nulla, solo una lettera d'addio. Caro frigorifero side by side, 800 litri Silver Grey modello XSCC SK Takaido, elettrodomestici. Quando mi hai detto che desideravi morire in Svizzera, sono sprofondata in un abisso di disperazione. Poi, quando hai aggiunto che volevi ancora vivere dopo aver messo fine al nostro amore, ho tirato un sospiro di sollievo al pensiero che almeno non saresti scomparso da questo mondo. E quando infine hai detto che sognavi di avvolgere nel tuo abbraccio il gelo della neve del Monte Cervino e non più il mio corpo, mi sono sentita pervadere da un senso di pace infinita. Perciò ti supplico, uccidimi e permettimi di morire dentro di te. Diventerò tiepida neve tra le tue grandi pareti, neve calda con tanto di organi interni. Ti prego di accettare il mio amore come se fosse il mio ultimo bacio. Io che non ho mai smesso di volerti bene e stare al tuo fianco. Questo appartamento era di proprietà di una mia defunta zia ed è assai probabile che per molti anni nessuno si accorgerà della mia morte. Quando mi troveranno sarò già diventata neve dentro di te. Spero che fino ad allora sarà trascorso tantissimo tempo. Addio. Non potrai mai sapere cosa t'ho scritto in questa lettera perché non sei in grado di leggere. Ma ci tengo ugualmente a dirti che ho voluto lasciare almeno un segno del nostro amore e della mia morte. Presi in braccio la mia cliente e la adagiai pian piano nel frigorifero. Accoccolata lì dentro, immobile e con le palpebre chiuse, sembrava una bambina. Le sistemai un po' i capelli con la mano e chiusi lentamente le ante del frigorifero. Era in modalità congelatore, gelido da far rabbrividire all'interno e un po' tiepido sulla superficie esterna, scosso da un lieve e ininterrotto tremore. Chiusi la porta dell'appartamento, dando fino all'ultima mandata, lasciai cadere la chiave nella cassetta della posta e uscii all'aria aperta. Diedi un'occhiata all'orologio e mi resi conto che era ancora mattino presto. Si annunciava un'altra giornata calda. Avevo a disposizione più di 24 ore prima del volo di rientro in Giappone, perciò pensai di approfittarne per fare un altro bagno al lago. Mentre guardavo la mappa della città, mossi un passo e avvertii uno scricchiolio sotto la suola. Spostai il piede e con mia grande meraviglia, dato il caldo che faceva, scorsi un piccolo grumo di neve sull'asfalto. Sollevai adagio la gamba, scossi la caviglia e vidi cadere altra neve per terra. Quindi mi rimisi pian piano in marcia, percependo solo per un breve istante la sensazione di calpestare quella leggera spruzzata bianca che andava sciogliendosi. E poi, continuando a sentire in un altro che lo stormire delle foglie sugli alberi ai lati della strada. Da Letterature Festival 2025, Gioia Salvatori con L'ultima neve di Sayaka Murata. Spettacoli, eventi culturali e segnalazioni della settimana. Con Michele Di Stefano, co-direttore di Short Theater a Roma dal 5 al 14 settembre 2025, ben trovato. Ciao, ciao. Cos'è Short Theater? Short Theater è un festival multidisciplinare di arti performative, teatro, danza, musica e altro che ogni settembre a Roma costituisce un po' un appuntamento di rientro, per così dire. È un luogo dove la comunità artistica si ritrova per ricominciare la stagione e quest'anno è alla sua 20ª edizione. Quindi insomma è un festival che è sempre stato significativo sia per il pubblico che per la comunità artistica sul territorio e non solo. Ha una programmazione nazionale, internazionale di alto profilo e insomma è qualcosa che quando ci è stata offerta la codirezione artistica abbiamo assunto anche come una responsabilità importante. Come si caratterizza l'edizione 2025? È un festival caratterizzato da una visione plurale, sulla pluralità insistiamo molto a partire dalla direzione che quest'anno e per il prossimo triennio sarà condivisa da quattro persone, oltre a me ci sono Ilenia Caleo, Silvia Calderoni e Silvia Bottiroli, ma direi di più e ancora più esteso, diciamo, la testa pensante di questo organismo, perché c'è una relazione orizzontale con il team di produzione che è sempre stato il cuore, la spina dorsale del festival. Quindi siamo veramente in una dimensione di immaginazione collettiva, la costruzione appunto di una visione che anche quando parte dal singolo è destinata a corrompersi, a moltiplicarsi, a trasformarsi in qualcosa che poi magari è anche distante, no, dalla visione personale. Quindi sono tutte scelte che possono anche essere autoriali o di pensiero, ma che vengono frullate in una sorta di grande turbina che va a una velocità molto intensa. cioè in questo momento siamo proprio in una fase di intensità pre-festival. Quanti sono gli appuntamenti? Ci sono più di 35, ogni giorno ci sono almeno 5 attività differenti, c'è un formato che quest'anno abbiamo chiamato classe, che è un formato basato su una trasmissione di saperi non accademici che avviene ogni giorno lungo tutta la programmazione del festival e ha la stessa importanza degli spettacoli più classici e tradizionali, quindi stiamo cercando anche di fare un lavoro di piccoli spostamenti, microclimi diversi rispetto al semplice elenco di spettacoli perimetrati dalla loro grammatica. Oltre alla classe ci sono altri formati. Altra cosa importante è che il festival nell'ultimo fine settimana trasloca completamente, cambia ambiente, cambia paesaggio e si installa per 2 giorni al Palazzo dei Congressi ad Eur. Quindi mentre la Pelanda rimane il cuore pulsante del festival per buoni 10 giorni e ci sono solo 2 spostamenti in esterno, uno al Teatro India per lo spettacolo in collaborazione con REF di Anteresa De Kersmacher e Radim Rouet e al Teatro Vittoria a Testaccio per il lavoro, l'ultimo lavoro di Alessandro Sciarroni, un canto. Poi ci saranno 2 giorni di programmazione performativa a Palazzo dei Congressi. Chiaramente con un altro assetto ambientale, con un altro equilibrio, con altre possibilità, con la possibilità di mettere il corpo di fronte al vuoto, allo spazio monumentale. Il Palazzo dei Congressi è un monumento che ha appunto nella sua volumetria una forza anche inquieta, secondo me, e verrà occupato appunto nei suoi spazi enormi, in mezzo ai marmi, alle colonne, arriveremo sulle 2 terrazze che si affacciano sul paesaggio appunto metafisico di Eur. Insomma, una sfida molto interessante anche proprio per la performatività in sé. Com'è stata la scelta artistica? Abbiamo cercato di guardare a una geografia leggermente diversa rispetto ai circuiti, quindi per sentimento e per attrazione stiamo guardando ai paesi del Mediterraneo, alla Spagna, al Libano, all'Iran, all'Africa. Stiamo cercando appunto di spostare l'asse di questa attrazione, cerchiamo di fare un lavoro senza definizioni troppo precise, chiaramente rispettando degli equilibri. Sono anche equilibri ministeriali legati, no, a numeri e a categorie, però ecco, la nostra tendenza è quella di non stare a categorizzare troppo, per cui si può dire che il festival mette al centro il corpo e il corpo può avere una presa di parola, una presa di movimento, può essere appunto un corpo che non sceglie sempre grammatiche che possono essere definite teatrali, c'è una grande attenzione al potere evocativo del suono, ci sono degli ambienti che sono attraversati quasi esclusivamente da scalette segrete, ossessioni musicali e invitiamo appunto artisti e artisti complici a regalarci le loro playlist in un luogo che chiameremo Salon, che è leggermente dislocato rispetto agli interni della Pelanda, quindi c'è questo desiderio di non definire troppo, anche se poi le categorie rispondono alle burocrazie. In realtà il festival, a cominciare dal fatto che non ha un titolo, è un festival senza nome, quindi senza definizioni troppo rigide. Diamo i riferimenti web per i dettagli del programma? Sul sito di shorttheater.org. Il festival comincia in Pelanda e finisce all'Euro il 14. Volevo sottolineare anche che lunedì 8 il festival si apre a una assemblea nazionale del teatro, ma che in realtà è aperta a tutto il mondo, quindi non è solo per addetti ai lavori, e attraverso la collaborazione con il collettivo Vogliamo Tutt'altro sarà una giornata di studi e anche di riflessioni e di confronti dedicata appunto allo status quo della situazione della programmazione culturale in Italia. 20ª edizione di Short Theater a Roma dal 5 al 14 settembre 2025. Un saluto e un ringraziamento al co-direttore artistico Michele Di Stefano. Alla prossima. Grazie a voi, alla prossima. Ciao.

Come sarà strutturato lo spazio? Lo spazio è presso Borghetto San Carlo, un casale di campagna che è stato ristrutturato e restituito alla collettività, oggi di fatto uno spazio pubblico e permette di utilizzare sia gli spazi interni del casale, dove ci saranno appunto i padiglioni con gli editori, che mettere anche due palchi esterni, uno grande dove si terranno gli spettacoli serali e uno più piccolo dove invece ci sono le presentazioni pomeridiane. Poi ovviamente ci sono una serie di spazi che verranno utilizzati nel corso del festival per i corsi di scrittura, c'è uno spazio stampa, insomma è un po' in piccolo la riproduzione di una fiera dell'editoria con tutte le sue componenti, però immaginiamola in questo scenario molto suggestivo di campagna, in uno spazio che poi Borghetto di San Carlo ha una storia di riscatto importante, insomma, che ben si lega al tema di questa edizione che è Terra Mia. Come si articoleranno le giornate? Le giornate inizieranno con l'apertura del festival venerdì 12 settembre, apriremo alle 5 del pomeriggio e andremo subito con la presentazione dei primi libri. Ci saranno 4-5 libri presentati ogni giorno, più o meno a cadenza oraria, e poi già da venerdì saranno presenti tutti gli stand degli editori e poi la sera invece verso le 9.30 ci sarà lo spettacolo serale, tenendo conto che ci sono anche stand enogastronomici, quindi è possibile cenare in loco, c'è uno spazio bar, insomma si può vivere il posto tutta la giornata. La mattina successiva del sabato e quella della domenica invece sono giornate che iniziano già alle 10 del mattino con ovviamente la presenza degli stand degli editori e anche i laboratori, workshop, spazi per bambini. Ci sarà anche una bella mostra fotografica interattiva, gli scrittori di ieri e di oggi, in cui sarà possibile vedere le foto di alcuni dei più grandi scrittori della letteratura italiana del Novecento fino a quelli dei giorni d'oggi, con anche la possibilità di ascoltare gli incipit dei loro libri più famosi. Ci racconti anche della storia del festival? Il festival nasce nel 2009 ed è di fatto un festival nato dal basso, tanto che alcune delle edizioni sono state addirittura finanziate col crowdfunding. Nasce dalla volontà di ribadire che la cultura è un bene comune e mettere insieme in territori svantaggiati la provincia di Rieti, dove siamo nati, contava soltanto 9 librerie quando siamo nati e credo che adesso ne abbia anche di meno. E Borghetto San Carlo si trova comunque sulla Cassia, zona giustiniana, in una zona comunque periferica, perché l'obiettivo è quello di portare grandi eventi culturali, accessibili, gratuiti e in cui non c'è questa offerta e non c'è neanche questa abitudine. Nasce da un'idea di 4 amici che poi nel frattempo sono diventati di più, che hanno pensato di mettere tutte le componenti della filiera che trovavano poco spazio a sistema in uno spazio che col tempo poi è diventato più grande. La prima edizione è stata realizzata a Poggio Mirteto, poi ci sono state 8 edizioni a Farfa, presso il comune di Farasabina, presso l'abbazia, poi crescendo siamo stati quasi costretti a spostarci a Rieti, che era una città più grande. Purtroppo poi nel 2022 questo percorso in Sabina si è interrotto perché non c'è stata più la collaborazione necessaria da parte di tutti gli enti che potevano rendere possibile questo piccolo miracolo, insomma, di un festival che costa relativamente poco ma che ha un programma molto importante. Siamo contenti che il Comune di Roma ci abbia invitato a realizzare il festival sul suo territorio, perché è un segno importante rispetto al lavoro che facciamo, ma anche alla necessità che c'è di fare cultura dal basso. Diamo i riferimenti web per tutte le informazioni? Il sito internet è liberisulacarta.com. 14ª edizione della Fiera dell'Editoria Indipendente Liberi sulla Carta. A Roma, Borghetto San Carlo, dal 12 al 14 settembre 2025. Un saluto e un ringraziamento al direttore Fabrizio Moscato. È stato un vero piacere, grazie a voi. Con Annie Graimondi, direttrice artistica della seconda edizione di Impacta Festival, le arti per i diritti a Milano, Piazza Olivetti, dal 9 settembre al 4 ottobre 2025. Ben trovata. Grazie, grazie dell'invito. Buongiorno a tutti. Spieghiamo cos'è. Il sottotitolo è Le arti per i diritti, vale a dire che col sorriso si affrontano tante tematiche che abbiamo molto ben presente in questi tempi, dal desiderio di pace all'uguaglianza, al diritto dei popoli, alla parità di genere, al diritto dei bambini. Ci sono infatti eventi che sono spettacoli di teatro, di danza, concerti, laboratori per bambini e famiglie. C'è spettacoli per i bambini proprio appositamente, per il municipio 6 principalmente e poi per il municipio 5 della città di Milano. Il cuore del festival è Piazzale Donne Partigiane. Tutto il festival si sviluppa fra il 9 settembre e il 4 ottobre, però il cuore del festival è proprio questo grande, bel palcoscenico, questa piazza assurda che conoscono ben pochi in Milano, Piazzale Donne Partigiane alla Barona, è questo dal 17 al 21 settembre. In quelle date ci saranno spettacoli non stop, dalla mattina alla sera. In apertura, il 17, sarà offerto un aperitivo solidale, poi comincia con una performance di danza e poi un spettacolo concerto con il pianista di Yarmouz, pianista immortalato col suo pianoforte che si è portato da casa in mezzo alle macerie in Siria, proprio a Yarmouk, durante la guerra. E lui è un concertista, quindi va in giro per il mondo, racconta la sua storia e suona e canta. Quindi questa è l'apertura di Piazzale Donne Partigiane. Il programma è ampissimo, abbiamo dislocato tra Municipio 6 e Municipio 5 in vari luoghi della città che sono, oltre al Piazzale Donne Partigiane, sono dislocati in biblioteche, spazi strani che abbiamo chiamato angoli curiosi, tipo lo spazio Alda Merini, le metropolitane, la fermata di Tolstoi, Bolivar e Frattini, al Barrios Live, che è questo bar dove ci sarà una stand-up comedy. Questi sono gli angoli curiosi, ma poi ci sono gli spazi verdi. Gli spazi verdi sono dal Parco Ticinello alla Milano Greenway di Opera in Fiore, che è vicino al Villaggio Barona, nonché il Villaggio Barona, e sono anche al Parco Chiesa Rossa qua al Municipio 6, e poi ci sono eventi al Pacta Salone. Ci sono laboratori di danza, spettacoli con cene e performance, c'è un laboratorio per i bambini sulla luce. Tutti questi eventi sono 35, 33 sono gratuiti, 2 soli sono a pagamento, che è la cena, perché si paga anche la cena, e uno spettacolo di danza attraverso una performance che è sempre al Pacta Salone. Tutti gli altri sono gratuiti, quindi sono spazi dove arriviamo con l'intento non di invadere, ma con la cultura di portare divertimento, rigenerazione e di creare i luoghi di aggregazione di cui le periferie hanno gran bisogno. Com'è stata la scelta artistica? È caduta su tutte quelle realtà, associazioni o compagnie, oggi sono anche realtà straniere che portano avanti nella loro linea culturale un impegno per la costruzione della cultura dei diritti. Cioè, se facciamo riferimento alla nostra famosa agenda 2030, che viene tanto disattesa adesso perché basta guardarsi intorno cosa sta succedendo, stermini, guerra, nel cuore abbiamo che tutto finisca e si stia al meglio, tutto però portato col sorriso, il divertimento, ma pensiamoci. È un impegno etico, cerchiamo di portare attraverso il divertimento una riflessione a tutti quanti, non dimentichiamo tutti i diritti che vengono continuamente violati ogni giorno. I riferimenti web per il programma? C'è il nostro sito www.pacta.org, ma c'è anche l'impactafestival.it. Noi come cuore pulsante, Pacta dei Teatri ha tutti i suoi riferimenti e faremo anche un banchetto, fra l'altro, per la cultura in Piazzale Donne Partigiane, dove la gente può venire, fare domande, danno informazioni generali. Volete che vi dica, per esempio, in Piazzale Donne Partigiane cos'altro c'è? C'è uno spettacolo su San Francesco d'Assisi, che mi sembra anche lui molto attuale. Uno spettacolo sui pappagalli di Mozart, che vogliono uscire dalle loro gabbie, appunto, Papageno e Papagena, che è uno spettacolo comico per grandi e piccini. Poi nel fine settimana abbiamo molte cose musicali. Abbiamo i Fusai Fusa, che portano musiche di diverse etnie, e alla sera Mohamed Ba, che ha una sua storia concerto sulle migrazioni. Poi ci sarà un percorso di danza attraverso il Villaggio Barona, attorno a Piazzale Donne Partigiane. Sono coreografie con danzatori che portano in giro, come il pifferaio magico, portano in giro gli spettatori connessi con delle cuffie per certi luoghi da scoprire del Villaggio Barona. È una performance che connette lo spettatore assieme al danzatore attraverso cuffie, dove c'è la musica e la storia di quei luoghi che passa attraverso. Questo è fatto dalla compagnia San Papier. Poi ci sono eventi come il workshop per bambini e famiglie, che ci sarà sabato sul Leporello, cioè su quella costruzione strana, un po' a fisarmonica delle carte cartoni, e lì sarà disseminato con un grandissimo tappeto tutto il palco e per terra di Piazzale Donne Partigiane, dove i bambini potranno mettersi a tagliare, disegnare, e anche alle famiglie saranno date dei kit. Questo è organizzato attraverso un'artista svizzera e Amnesty International. Quindi i bambini hanno modo di divertirsi tanto in questi giorni, perché sabato e domenica mattina ci sono proprio gli spettacoli per loro. Ci sono spettacoli per loro in Piazza delle Donne Partigiane, ma anche Villaggio Barona e tutti questi altri luoghi che ho citato. Seconda edizione di Impacta Festival, le arti per i diritti, a Milano, Piazza Olivetti, dal 9 settembre al 4 ottobre 2025. Un saluto e un ringraziamento alla direttrice artistica Anni Graimondi. Alla prossima! Grazie, venite a divertirvi, che poi tutto è gratuito, è un omaggio a tutti i cittadini. È il momento dell'agenda per gli appuntamenti della settimana relativi al teatro con Simone Nebbia di Teatro e Critica. E benvenuti e benvenuti a questa nuova settimana teatrale che continua e si manifesta con grandi appuntamenti. Cominciato Roma Europa Festival, cominciato Short Theater, ma insomma, pian piano ne parleremo. Andiamo con ordine, e l'ordine parte da qualcosa di un pochino più laterale che andiamo a evidenziare. Ne abbiamo parlato già la scorsa settimana, nella Valle della Caffarella, ancora fino al 21 settembre, per il Padiglione delle Meraviglie nella Casa del Parco Regionale dell'Appia Antica Vigna Cardinali. Quella è la prima edizione di questa rassegna, curata da Massimo Venturiello e Tosca per la direzione musicale, con la compagnia Malalingua, Simone Perisano, Antonio Catalano. Questa settimana vanno in scena, dal 10 al 14 settembre, le storie di Resistenza, con i testi di Massimo Venturiello e la direzione musicale di Tosca, e il podcast dal vivo 7T di e con Simona Operisano. Contestualmente abbiamo anche l'intreccio con la terza edizione di Poetry Village fino al 13 di settembre, quindi ancora questa settimana, un dialogo culturale con 40 voci della poesia e della letteratura contemporanea. Tutto è a ingresso libero, quindi invito insomma soltanto ad andare senza prenotazione e godere di questi appuntamenti. Procediamo ancora oltre, perché questa settimana, la seconda e ultima della 19ª edizione di Anomalie, il Festival Internazionale di Nuovo Circo Contemporaneo nelle periferie romane, e dunque in Largo Mingaroni a Tor Bella Monaca andranno in scena molti spettacoli appunto di circo contemporaneo. Vado un po' a segnalare quello che principalmente da venerdì a domenica 12-14 per questa settimana verrà proposto: Brigitte et les petits bas perdus di Nadia Addis della compagnia Nando e Maila, in anteprima nazionale, è spettacolo di microcirco per un pubblico ristretto. Poi Camelot di Mr. Pope e Blue Mamba, una fiaba urbana su trampoli e musica dal vivo. Poi To Play or Not to Play di Lannutia e Corbo, clown e marionette si interrogano sul senso dell'atto espressivo. Infine, venerdì 12 sempre, si chiude con Davai, duo da Cirque Israele-Argentina, prima regionale, per questo dialogo tra violoncello, acrobazie e amicizia nomade. Sabato 13, Ci penso io di Andrea Scarimbolo, Chip Chips di Giorgia Dell'Uomo, che trasforma la busta di snack in un rito clownesco, e due milanesi del Circo Pacco, che porta in piazza Winner, una parodia sportiva tra cadute acrobatiche e trofei di cartapesta. Mentre invece domenica 14, Intus della Steam Duo scava nel profondo con acrobazia sonora e poesia visiva, mentre invece Bagatella di Talbot, Lorenzo Aureli, chiude il festival con una danza sospesa di forza ed eleganza. Quindi Anomalie per chi ama il circo questa settimana. Noi andiamo ancora un po' avanti a vedere l'inizio di questo nuovo festival diffuso di circo teatro sul tema delle migrazioni, dal 12 settembre fino al 12 ottobre, quindi inizierà adesso in due luoghi, precisamente il quartiere Laurentino e il teatro Furio Camillo. Tutti gli eventi gratuiti anche qui. Si parte il 12 settembre, venerdì, al Teatro Furio Camillo, con la mostra fotografica Motus, raccolta di scatti di Valerio Muscella, fotografo documentarista sui paesi di guerra e di confine. Sabato 13 andremo a vedere il circo in viaggio della compagnia Materia Viva, a seguire poi alle ore 16 e alle 17 va in scena Lella Bella della compagnia Ciezania. Mentre invece domenica 14, sempre alle ore 16, vedremo via Marinetti, angolo via Joyce, mi viene detto, ma insomma poi più informazioni si vanno a vedere sul sito, leggermente frizzante di Nino Maraviglia, con l'ironia, l'insicurezza di questo personaggio, leggermente frizzante, insomma uno sguardo divertito con la giocoleria e la sfida alla gravità. Mentre invece alle 17, Naufraghi per scelta della compagnia Los Filonautas, spettacolo del 2006 di equilibrismo. Questo per questa settimana, poi vedremo altre cose più avanti. Inaugura anche questa settimana la rassegna di danza, il Festival Internazionale di Danza Contemporanea a Velletri, che si chiama Paesaggi del Corpo. Appunto, protagonista è la danza contemporanea, si comincia questo weekend 13 e 14 con due appuntamenti. Sabato 13, Egri Bianco Danza, che presenta Wandern, l'ideazione e la coreografia di Chiara Frigo, mentre invece Compagnia Bellanda con simposio sarà poi a seguire, con Giovanni Leonarduzzi e Lia Claudia Latini. Sempre sabato, appuntamento finale della serata, Res Extensa con Dalet Terra Solida, Giorgia Giannini e Andrea Tenerini, con la direzione di Elisa Barucchieri. Mentre invece domenica 14 andremo a vedere altri appuntamenti. Segnalo velocemente Mandala Dance Company con laboratorio sul riciclo della plastica, e poi con An Act of Recycle, la performance interattiva di teatro e danza rivolta a bambini e famiglie. Poi segue il balletto di Sardegna Asmed con Taumata, firmato da Mario Coccetti, Ersilia Danza con Binario 17, Pasquale Cofone, Giuseppina Cocozza, e il weekend si chiude con la compagnia Atacama, L'ultimo uomo, Patrizia Cavola, Ivan Truol, ci porteranno dentro la società della stanchezza, le Byung-Chul-Han, a cui si ispira questo spettacolo. Quindi Paesaggi del Corpo a Velletri per questo fine settimana. Allora, qui ci sono poi tre appuntamenti che vado a identificare uno dietro l'altro. Il primo è piuttosto interessante ed è organizzato da Fabio Morgan, con questo progetto dedicato agli ATER, ai cortili degli ATER, delle case popolari, ingresso gratuito, comprenotazione, ed è un progetto dedicato a Mamma Roma, che comincia il 13 di settembre e sarà fino al 28 di settembre. In 5 appuntamenti verrà presentato appunto nei cortili di ATER Torrevecchia 13 settembre, ATER Lamaro il 14, poi più avanti ne parleremo ancora, ma 21, 26 e 28 settembre in 3 altri luoghi. E invito poi insomma a vedere in rete qualche informazione in più. Ma per quanto riguarda il progetto, insomma, siamo a 50 anni della morte di Pasolini ed è un lavoro, quello su Mamma Roma, che racconta della condizione femminile, soprattutto del rapporto tra madre e figlio, che poi è quello che è dietro il capolavoro pasoliniano del 63, se non vado errato, e lo spettacolo racconta questa forza del femminile che insomma entra all'interno, sconquassa nel film, no? La condizione sociale del personaggio di Roma, interpretato da Anna Magnani. Quindi andremo a vedere un po' invece nel contemporaneo questa forza generativa del femminile, come si manifesta nel lavoro appunto di Fabio Morgan negli ATER. Poi questa settimana, insomma, abbiamo già avuto modo di parlare dell'inizio di Short Theater e andiamo a vedere che cosa ci propone questa successiva e ultima settimana. Gli appuntamenti sono tanti, quindi shorttheater.org per vedere un po' tutto. Ieri è andata in scena, ieri si è svolta l'assemblea plenaria, prima con dei tavoli di lavoro al mattino e poi plenaria nel pomeriggio, sulla condizione lavorativa, sulla possibilità di immaginare nuove modalità di lotta all'interno anche del contesto del finanziamento pubblico, immaginare anche lotte sindacali, quindi organizzare delle nuove lotte sindacali. poi convergere verso lotte diverse e anche cercare di capire in una visione più politica come si lega tutto questo anche alla questione genocidaria che sta attraversando il nostro mondo contemporaneo. E ulteriore tavolo di approfondimento è stato quello un po' più incendiario, diciamo, che ha riguardato l'insorgere, quindi cercare di unificare le varie lotte che riguardano non solo lo spettacolo dal vivo, l'arte tutta, ma in generale anche, insomma, le lotte che hanno meno a che vedere con l'arte, per cercare un fronte comune. Questo è quello di cui si è parlato ieri, ma il festival continua e continua offrendo teatro. In ogni caso, io ricordo giusto alcuni appuntamenti, sicuramente un canto punto di Alessandro Sciarroni, che sarà questa sera al Teatro Vittoria e anche domani. E domani ci sarà Biedò, Silvia Rampelli con l'Avvenire. Questi, insomma, sono tra gli appuntamenti più importanti. Clara Delorme ancora mercoledì e giovedì. La stessa cosa accadrà per Biedò, Silvia Rampelli. Clara Delorme presenta l'Erepos. Mentre segnalo anche, per quanto riguarda il weekend, il lavoro di Dom Darkness Picnic al Palazzo dei Congressi e il lavoro teatrale, cioè tutta un po' danza, danza o performance, mentre invece sempre sabato 13 e domenica 14, Dom sarà in tutte e due le date, ricordo il lavoro Anixi di Alexia Sarantopoulou e i lavori, questo è uno dei pochi lavori di teatro, il lavoro Schaustellen di Vincent Giampino. Siamo ancora nella danza, poi il lavoro Leopardo di Fabrizio Favale e Cristina Cristal Rizzo, sempre al Palazzo dei Congressi, dove, insomma, si svolge l'intero ultimo weekend di Short Theater. Ma è cominciato anche il Roma Europa Festival e questa settimana, in collaborazione sempre con Short Theater, andremo a vedere la prima nazionale oggi e domani al Teatro India, la prima nazionale di A Little Bit of the Moon di Anna Teresa Dekkersmeker con Rabih Mrouet. E Little Below the Moon sarà in scena questa sera, appunto, al Teatro India. Si tratta di una coreografa belga straordinaria che dai primi anni 80 ha posto le basi del suo successo attuale, mentre invece Rabih Mrouet è un regista teatrale libanese che è un creatore di teatro multimediale e politico. L'incontro tra di loro in questo nuovo lavoro lo andremo a vedere appunto al Teatro India in prima nazionale. Mentre invece, appunto, all'Auditorium Conciliazione oggi e domani per Roma Europa Festival, la prima nazionale di Entertainment di William Forsythe e Lisa di Ioannis Mandafunis. Entrambi saranno accompagnati dal Dresden Frankfurt Dance Company, quindi sono due movimenti con questi due grandi coreografi e danzatori, appunto, all'Auditorium Conciliazione. Quindi invito ad andare sul sito romaeuropa.net per biglietti, vedere le immagini, informazioni un pochino più precise. E con questo direi che abbiamo concluso. Io saluto tutte e tutti e do appuntamento a teatro. Ciao! Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa. Il martedì alle ore 14. Trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce Trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.